Sai quante volte vorrei sporcarmi le mani col tuo sangue, ma poi pulisco tutto con le mie lacrime. Sai quante volte ho odiato le mie rime invece che le tue frigne. Questa musica incredibile rende tutto digeribile, ti manda in alto, dirigibile. Ma poi cadono anche i nuovi Led Zeppelin. Quanta ignoranza sti proiettili, a filo lame, povertà delle mie tasche, ricchezza della mia arte, oscuro passeggero, notte, chiede la sua parte, note, niente da fare, solitudine, chiudere tutto il mondo nelle mie stanze, così cancellare tutta l'inquietudine. Altro album anonimo dimenticato, un altro si prenderà tutto, vomito calpestato da un altro mostro. Tu che mi spari versi miei per te amari, distillati dall'eclissi di interi anni solitari, cammini di dolore e affetti così rari. Perché questa solitudine, cosa faccio in questo mondo? Dov'è il mio posto? È inchiostro d'inferno questo. Vedremo l'alba di un nuovo giorno, noi che siamo divini anche coi piedi immersi nel fango più profondo. Verrà luce della notte ad asciugare le nostre lacrime, uccideranno il nostro nemico, le nostre liriche. Riavere in vita indietro, così lontano, perché questo tutto sfugge sempre di mano. Nulla è certo, il domani è un brutto mondo da vivere, questo ormai è certo. Vivo ogni solitario giorno come un lupo, dovrei ululare alla luna anche se non ci sei più te in questo mio sogno, in questo mio sogno. Affilo lama, povertà delle mie tasche, la ricchezza della mia arte, oscuro passeggero, notte, chiede la sua parte, note, niente da fare, solitudine, chiudere tutto il mondo nelle mie stanze, così cancellare tutta l'inquietudine. Altro album anonimo dimenticato, un altro si prenderà tutto, vomito, calpestato da un altro mostro. Tu che mi spari versi miei per te amari, distillati dalle crisi di interi anni solitari, cammini di dolore e affetto così rari. Cosa faccio in questo mondo? Dov'è il mio posto? È inchiostro d'inferno questo. Vedremo l'alba di un nuovo giorno, noi che siamo divini anche coi piedi immersi nel fango più profondo. Verrà la luce della notte ad asciugare le